Yuri! Yuri! Caccia! Vai che comincia! E bentornati a Loro Balcani, qui su Radio Wombat, fuoco alle polveri. Un saluto da Buon Tuco. Torniamo a parlare appunto dei nostri vicini e un aggiornamento dopo questa pausa natalizia che abbiamo fatto. Partiamo subito dalla Bosnia. Il governo di Banja Luka si scaglia contro i manifestanti del movimento Prava Zadavida con arresti e accuse. L'entità della Bosnia Erzegovina sembra ormai essere preda di un regime autocratico. Questo è un articolo di Ahmed Buric, nel quale parto per raccontarvi questa storia e le proteste collegate. Allora, il 24 marzo, tutto parte da qui, del scorso, la polizia di Banja Luka, che è una cittadina della Bosnia Serva, trovò il corpo di un uomo nel fiume Crvena, non lontano dal centro storico. Era appunto il corpo del 21enne David Dracicevic, che era scomparso 6 giorni prima, alla fine di una serata con gli amici. Praticamente dopo le prime indagini la polizia disse che la sera del 18 marzo appunto David era stato coinvolto in una rissa con altri uomini in un bar di Banja Luka appunto, e aveva fatto una rapina e poi tornato a casa era caduto da un piccolo ponte sopra il fiume Crvena annegando. La famiglia, in particolare il padre Davor, disse di non credere alla versione della polizia e accusò le autorità di coprire i responsabili appunto di questo omicidio. La storia è andata avanti e le ricerche della verità. Da allora, infatti, la morte di David è diventato un caso nazionale. Manifestazioni per chiedere la verità e giustizia si sono diffuse in altre città bosniache e la polizia è intervenuta, tendenzialmente arrestando decine di persone, tra cui il padre stesso. Il quale del quale non si ha più notizie da qualche giorno. Tra l'altro appunto sottolineo che Pravda za Davida è appunto verità per David. Della questione si sono occupati anche il parlamento serbo-bosniaco e il presidente di turno della Bosnia Dodik. Appunto vi avevo raccontato, avevamo seguito le elezioni in Bosnia. Egli si è espresso con parole dure contro i manifestanti, e perché ora fra poco vi racconterò. È una storia complicata che ha fatto emergere fondamentalmente le frustrazioni di molti cittadini bosniaci verso l'inefficienza del loro sistema statale. Nonostante la morte di David sia diventato un caso discusso in tutto il paese, le proteste e le maggiori tensioni si sono concentrate a Banja Luka, appunto la cittadina. Una delle due che è dentro la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, riassumendo, è una delle due principali entità in cui è divisa la Bosnia. C'è la Bosnia Serba, abitata prevalentemente da serbi che sono ortodossi, come la famiglia appunto di David, mentre nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'altra entità, abitano soprattutto i bosniacchi che di confessione musulmana e i croati che sono cattolici. Le proteste di Banja Luka sono iniziate poco dopo il ritrovamento dei cadaveri di David, quando la polizia appunto parlò di morte accidentale. Secondo il medico patologo che si è occupato appunto dell'autopsia, Zeliko Karan, Dracevic aveva diversi ematomi sul corpo, probabilmente causati dai colpi ricevuti durante la rissa del 18 marzo. Aveva anche ferite sulle mani post mortem, forse provocate dall'impatto del corpo contro le rocce del fiume in cui era caduto. Karan non esclude però che gli ematomi riscontrati sul corpo di Dracevic potessero essere stati causati in un momento successivo alla rissa. Questo è un dubbio che la polizia non ha ritenuto importante e quindi non è stato usato all'interno delle indagini. La famiglia sostiene invece appunto che è stato ucciso. La madre racconta appunto che il 18 marzo ha ricevuto un messaggio da David, del suo figlio appunto, che gli diceva: se mi succede qualcosa il responsabile sarà F.C. Cioè le iniziali dell'uomo che la famiglia ha individuato come una figura pubblica conosciuta, ma di cui non ha rivelato l'identità ancora. Secondo i familiari di Dracevic, la polizia locale e il ministro dell'interno della Repubblica Serba, che è Lukac, chiusero il caso come morte accidentale per coprire questo presunto crimine compiuto da questa persona importante. A maggio le proteste quotidiane organizzate appunto a Banja Luka da da Davor, che è il padre, hanno spinto il Parlamento locale a prendere l'iniziativa e creare una specie di commissione d'inchiesta che indagasse appunto sull'accaduto. A giugno la commissione ha concluso che c'erano diversi elementi per poter parlare di omicidio e non di morte accidentale, ma il rapporto finale è stato bocciato dal Parlamento locale, che è controllato dalle forze vicine ai nazionalisti di Dodik. All'epoca dei fatti, di quando appunto c'è stata questa sentenza, Dodik era il presidente della Repubblica Serba e oggi invece, come vi avevo raccontato seguendo le elezioni, è uno dei tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina. Dopo la decisione del Parlamento le indagini sono fermate, ma le proteste no, e quindi nei mesi successivi le manifestazioni sono proseguite a Banja Luka e si sono estese anche ad altre città, tra cui la capitale Sarajevo. I manifestanti hanno iniziato a chiedere non solo giustizia per David, ma anche la fine di una serie di pratiche molto diffuse in Bosnia, come appunto la corruzione e la continua violazione dello Stato di diritto. Alle proteste si sono aggiunte nel corso dei mesi anche attivisti e leader dell'opposizione, senza però che emergessero novità sulla morte di Dašević. La situazione si è aggravata verso la fine dell'anno. A Natale la polizia è intervenuta durante la manifestazione e ha arrestato diverse persone. Il 30 dicembre i manifestanti hanno impedito che in città si realizzasse un concerto di un cantante folk locale. E il giorno successivo il sindaco ha annunciato che per Capodanno non ci sarebbe stato niente. Ha detto: a mezzanotte a Banja Luka starà in silenzio per la prima volta dai tempi della guerra. La guerra chiaramente 92-95 che ha scosso la Bosnia, chiaramente. Quindi le autorità serbo-bosniache hanno emanato mandati di arresto per diverse persone che avevano partecipato alla manifestazione il giorno precedente, tra cui il parlamentare serbo-bosniaco dell'opposizione Stani Vukovic e il padre stesso di David, che ad ora è scomparso. La polizia ha negato di averlo arrestato e la famiglia dice di non saperne niente. L'1 gennaio ha cominciato a circolare questa notizia che sembrerebbe che il padre di David sia dentro l'ambasciata britannica degli Stati Uniti, del Regno Unito, di Sarajevo, protetto dall'ambasciatore Matthew Field, che però ha smentito. Negli ultimi giorni la polizia di Banja Luka ha vietato le proteste senza riuscire però a fermarle, e questa volta a organizzare è stata la madre, appunto Susan, che nel mentre è stata anche denunciata con varie accuse, tra cui intercettazioni illegittime, non si è capito bene, cioè non ho capito bene io quali siano queste accuse verso la madre, però è stata denunciata. Lei dice di non sapere dov'è suo marito e che porterà avanti le proteste. L'attuale clima politico a Banja Luka, e finiamo con la Bosnia, è direttamente però collegato a quello che sta accadendo invece a Belgrado, nella vicina Serbia. Da settimane migliaia di persone infatti si stanno radunando nelle vie centrali della capitale, Belgrado, per manifestare il proprio dissenso contro il governo e lo strapotere del presidente Vucic, il quale annuncia elezioni anticipate. Questo è da cui partiamo, è un articolo di Dragan Jajnic, scritto il 10 gennaio. Ogni sabato sera, nonostante le temperature che là vanno sotto zero, migliaia di persone marciano nel centro di Belgrado per protestare contro il governo e il presidente serbo Vucic. Tendenzialmente in queste proteste sta protestando la classe media, che è la parte più istruita, ancora non emigrata, mentre i principali media serbi praticamente tacciono sulle proteste e le minimizzano. Gli oppositori infatti del governo si radunano per lo più in modo spontaneo tramite i social network. Cosa si chiede? Si chiede il rafforzamento dello Stato di diritto e la fine della partitocrazia, e la partecipazione massiccia alle proteste hanno dimostrato questa volontà e prontezza di impegnarsi per il cambiamento. Sono state 5 per ora le manifestazioni. Solo dopo l'inizio delle proteste il presidente Vucic ha dichiarato che non verrà incontro alle richieste dei manifestanti nemmeno se ci fossero 5 milioni di persone in strada, e questa è una dichiarazione che ha portato ancora più gente in strada, con lo slogan diffusissimo "uno dei 5 milioni", cioè la gente va con mano in questi cartelli dicendo "io sono uno di questi 5 milioni che dovresti ascoltare". Il ministro dell'interno Stefanovic, durante una conferenza stampa, ha cercato di convincere l'opinione pubblica serba che alle proteste ci siano circa 3.500 persone, ma le foto e i video smentiscono questi numeri, anzi si parla di decine di migliaia in marcia. e questo è stato un po' interpretato come un segnale di panico da parte del governo. E infatti le autorità hanno rinunciato a scoraggiare le proteste che all'inizio avevano etichettato come una manciata di scontenti manipolati dall'opposizione, addirittura dai servizi segreti stranieri, perché è un approccio che in passato ha fatto aumentare le proteste, che poi in realtà è proprio quello che è successo. Tuttavia i manifestanti continuano ad essere duramente criticati sui media mainstream e non hanno la possibilità di difendersi. Infatti i media parlano pochissimo delle proteste, dicono che sono pochi e per lo più alla fine dei notiziari televisivi o in pagine interne. Quindi abbandonata questa strategia di contare i manifestanti e cercare di mostrare che sono pochi, la leadership al potere ha adottato un approccio diverso. Sostiene che si tratti di raduni politici organizzati dai partiti di opposizione e li accusa di aver derubato la Serbia quando erano al potere. Quindi classica strategia politica. Gli esponenti dell'opposizione non hanno avuto occasione di rispondere alle accuse, che invece all'interno dei media, che invece danno ampio spazio a Vučić, chiaramente. Nonostante l'opposizione non abbia mai menzionato le elezioni, il governo sta lanciando l'ipotesi di elezioni anticipate. Perché? Perché se le proteste vanno avanti potrebbe crescere l'opposizione e Vučić potrebbe non vincere così facilmente come ha vinto nelle scorse elezioni e come ad ora potrebbe, secondo le stime, rivincere. Quindi stanno dicendo di fare elezioni anticipate. I rappresentanti del potere continuano a ripetere che non sono disposti a parlare con i cittadini, che sono disposti a parlare con i cittadini ma non con l'opposizione, affermando implicitamente che i membri dell'opposizione non siano cittadini, e negano così uno dei principi fondamentali della democrazia, o almeno questo tipo di democrazia. La leadership al potere ha scelto di rispondere alle proteste con elezioni politiche anticipate, appunto. Però in realtà non c'è bisogno di queste elezioni, perché la maggioranza del governo è salda. E ancora, insomma, non è una cosa certa, sono minacce. Appunto, le elezioni sono un terreno su cui la coalizione del governo ha un dominio assoluto, perché dal momento che controlla gli organi statali e i principali media del paese, poi dal momento che dispone di mezzi finanziari enormi per condurre la campagna elettorale, e non solo, ma usa le risorse pubbliche per l'autopromozione politica, la vittoria è abbastanza semplice. Finora sono state organizzate 5 proteste, appunto, vi dicevo. La prima manifestazione ha visto la partecipazione di alcune migliaia di persone. Il secondo sabato il numero di partecipanti è raddoppiato, mentre la terza e la quarta si parla di decine di migliaia di persone che sono riversate nelle strade di Belgrado. Si possono vedere le foto e i video. La quinta manifestazione, che è stata il 5 gennaio, ha visto 10.000 persone. Bisogna tuttavia tener conto che tante persone erano fuori per le festività e che era molto molto freddo, si parla, appunto, dicevo, sotto lo zero. Da quel giorno per la prima volta sono state organizzate proteste anche a Nis, a Kragujevac e in altre città della Serbia. No, Kragujevac, questo dovrebbe essere il nome. A scatenare le proteste è stata l'aggressione principalmente violenta da parte di ignoti a Borko Stefanovic, che è il leader della sinistra serba e uno dei fondatori dell'Alleanza per la Serbia. È avvenuto questa aggressione è avvenuta il 23 novembre a Kruševac, e da allora le proteste si svolgono sotto lo slogan "Contro la violenza, stop alle camicie insanguinate", perché Stefanovic è stato colpito alla testa da un'asta di ferro più volte, gli ha insanguinato tutta la camicia. E poi l'altro slogan è uno dei 5 milioni, come già in precedenza vi dicevo. Gli esponenti dell'opposizione partecipano alle proteste ma restano mescolati alla folla e non tengono discorsi, mentre in primo piano ci sono attori, intellettuali e giovani attivisti. E concludiamo questo speciale Urlo dei Balcani con appunto una nuova sottorubrica delle musiche dei Balcani. Oggi parliamo degli Zoster, gruppo nato a Mostar nel 2000 dall'incontro fra Mario Ksenovic e Drazan Planinic. Il gruppo propone un reggae originale con rimandi al rock e al pop. Nelle canzoni della band emergono riferimenti alla pace, all'educazione e alla tolleranza. Il nome del gruppo prende spunto da Herpes Zoster, che è la malattia dovuta all'abbassamento delle difese immunitarie. La leggenda vuole che durante un live un medico fan abbia diagnosticato il disturbo al leader della band. entrano in studio per la prima volta nel 2003 e debuttano con una demo nel 2004. L'ultimo disco, Srce Uza Vrelo, è del 2014. Io vi propongo un estratto da questo album, precisamente Sudbine. Yuri! Dai che comincia! E ci sentiamo la prossima volta. Viva Folle Polveri, viva Radio Wombat. Yuri! Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina, Sudbina, oh Sudbina. Yeah.